Cari fratelli e sorelle, facciamo oggi un nuovo posto, un nuovo passo in questa sorta di galleria di ritratti dei primi testimoni della fede cristiani che abbiamo iniziato alcune settimane fa e prendiamo oggi in considerazione una coppia di sposi. Si tratta dei coniugi Priscilla e Aquila che si collocano nell'orbita dei numerosi collaboratori gravitanti intorno all'Apostolo Paolo, ai quali avevo già brevemente accennato mercoledì scorso. In base alle notizie in nostro possesso, questa coppia, Priscilla e Aquila, di coniugi, svolse un ruolo molto attivo al tempo delle origini post-pasquali della Chiesa. I nomi di Aquila e Priscilla sono latini, ma l'uomo e la donna che li portarono erano di origine ebraica. Almeno Aquila però proveniva geograficamente dalla diaspora dell'Anatolia settentrionale che si affaccia sul Mar Nero nell'attuale Turchia, mentre Priscilla, il cui nome si trova a volte abbreviato in Prisca, era probabilmente un'ebrea proveniente da Roma. È comunque da Roma che essi erano giunti a Corinto, dove Paolo li incontrò all'inizio degli anni 50. Là egli si associò ad essi, poiché, come ci racconta Luca, lo abbiamo ascoltato, esercitavano lo stesso mestiere di fabbricatori di tende o tendoni per uso domestico e fu accolto addirittura nella loro casa. Il motivo della loro venuta a Corinto era stata la decisione dell'imperatore Claudio di cacciare da Roma i giudei residenti nell'urbe. Lo storico romano Svetonio ci dice su questo avvenimento che aveva espulso i cristiani perché aveva espulso gli ebrei perché provocavano tumulti a motivo di un certo Cresto. Si vede che non conosceva bene il nome, invece di Cristo scrive Cresto, e aveva una idea solo molto confusa di quanto era avvenuto. In ogni caso c'erano delle discordie nell'interno della comunità ebraica intorno alla questione se Gesù è il Cristo, e questi problemi erano il motivo per l'imperatore di espellere semplicemente tutti gli ebrei da Roma. Se ne deduce che i due coniugi avevano abbracciato la fede cristiana già a Roma negli anni 40 e ora avevano trovato in Paolo qualcuno che non solo condivideva con loro questa fede che Gesù è il Cristo, ma che era anche apostolo chiamato personalmente dal Signore risorto. Quindi questo incontro, primo a Corinto, dove lo accolgono nella casa e lavorano insieme nella fabbricazione di tende. In un secondo tempo, Aquila e Priscilla si trasferirono in Asia Minore, a Efeso. Là ebbero una parte determinante nel completare la formazione cristiana del giudeo alessandrino Apollo, di cui abbiamo parlato mercoledì scorso, poiché egli, Apollo, conosceva solo sommariamente la fede cristiana, Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggiore accuratezza la via di Dio, così ci racconta San Luca negli Atti degli Apostoli. Quando da Efeso l'Apostolo Paolo scrive la sua prima lettera ai Corinzi, insieme ai propri saluti manda esplicitamente anche quelli di Aquila e Prisca con la comunità che si raduna nella loro casa. Veniamo così a sapere del ruolo importantissimo che questa coppia svolse nell'ambito della Chiesa primitiva, quello cioè di accogliere nella propria casa il gruppo dei cristiani locali quando essi si radunavano per ascoltare la parola di Dio e per celebrare la Eucaristia. È proprio quel tipo di adunanza che è chiamato in greco ecclesia, la parola latina è ecclesia, italiana chiesa, e vuol dire convocazione, assemblea, adunanza. Nella chiesa, nella casa di Aquila e Priscilla, quindi si riunisce la chiesa, la convocazione di Cristo, e celebra qui i sacri misteri. E così possiamo vedere la nascita proprio della realtà chiesa nelle case di credenti. I cristiani fin verso il secolo III non avevano propri luoghi di culto, tali furono in un primo tempo le sinagoghe ebraiche, fin quando l'originaria simbiosi tra Antico e Nuovo Testamento si è sciolta e la Chiesa delle Genti fu costretta a darsi una propria identità, sempre profondamente radicata nell'Antico Testamento. Poi, dopo questa rottura, si riuniscono nelle case i cristiani che diventano così Chiesa e finalmente nel III secolo nascono propri edifici di culto di cristiano, ma qui, nella prima metà del primo secolo e nel secondo secolo, le case dei cristiani diventano vera propria chiesa. Si legge, come ho detto, insieme le sacre scritture e si celebra l'Eucaristia. Così avveniva quindi a Corinto, dove Paolo menziona un certo Gaio che ospita me e tutta la comunità, o all'Laodicea, dove la comunità si radunava nella casa di una certa ninfa, o a Colossi, dove il raduno avveniva nella casa di un certo Archippo. Tornati successivamente a Roma, Aquila e Priscilla continuarono a svolgere questa preziosissima funzione anche nella capitale dell'impero. Infatti Paolo, scrivendo ai Romani, manda questo preciso saluto: salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù. Per salvarmi la vita, essi hanno rischiato la loro testa, e ad essi non io soltanto sono grato, ma tutte le chiese dei gentili. Salutate anche la comunità che si riunisce nella loro casa. Quale straordinario elogio dei due coniugi in queste parole. E a Tessalo è niente meno che l'Apostolo Paolo. Egli riconosce esplicitamente in loro due veri e importanti collaboratori del suo apostolato. Il riferimento al fatto di avere rischiato la vita per lui va collegato probabilmente ad interventi in suo favore durante qualche sua prigionia, forse nella stessa Efeso. E che alla propria gratitudine Paolo associ addirittura quella di tutte le chiese delle genti, pur considerando l'espressione forse alquanto iperbolica, lascia intuire quanto vasto sia stato il loro raggio d'azione e comunque il loro influsso a vantaggio del Vangelo. La tradizione agiografica posteriore ha conferito un rilievo tutto particolare a Priscilla, anche se resta il problema di una sua identificazione con un'altra Priscilla martire. In ogni caso, qui a Roma abbiamo sia una chiesa dedicata a Santa Prisca sull'Aventino, sia le catacombe di Priscilla sulla via Salaria. In questo modo si perpetua la memoria di una donna che è stata sicuramente una persona attiva e di molto valore nella storia del cristianesimo romano. Una cosa è certa: insieme alla gratitudine di quelle prime chiese di cui parla San Paolo, ci deve essere anche la nostra, poiché grazie alla fede, all'impegno apostolico di fedeli laici, di famiglie, di sposi come Priscilla e Aquila, il cristianesimo è giunto alla nostra generazione, poteva crescere non solo dagli apostoli che lo annunciavano, ma per radicarsi nella terra del popolo, per svilupparsi vivamente, era necessario che l'impegno di queste famiglie, di questi sposi, di queste comunità cristiane, dei laici fedeli che hanno dato il humus per la crescita della fede, e sempre solo così cresce la Chiesa. In particolare, questa coppia dimostra quanto sia importante l'azione degli sposi cristiani. Quando essi sono sorretti dalla fede e da una forte spiritualità, diventa naturale un loro impegno coraggioso per la Chiesa e nella Chiesa. La quotidiana comunanza della loro vita si prolunga, in qualche modo si sublima nell'assunzione di una comune responsabilità a favore del corpo mistico di Cristo, forse anche di una piccola parte di esso. E così era nella prima generazione, così sarà stesso. Un'ulteriore lezione non trascurabile possiamo trarre dal loro esempio. Ogni casa può trasformarsi in una piccola chiesa, non soltanto nel senso che in essa deve regnare il tipico amore cristiano, fatto di altruismo e di reciproca cura, ma ancor più nel senso che tutta la vita familiare, in base alla fede, è chiamata a ruotare intorno all'unica signoria di Gesù Cristo. Non a caso nella lettera agli Efesini Paolo paragona il rapporto matrimoniale alla comunione sponsale che intercorre tra Cristo e la Chiesa. Anzi, potremmo ritenere che l'Apostolo indirettamente moduli la vita della Chiesa intera su quella della famiglia, e la Chiesa in realtà è la famiglia di Dio. Onoriamo perciò Aquila e Priscilla come modelli di una vita coniugale responsabilmente impegnata a servizio di tutta la comunità cristiana, e troviamo in loro il modello della Chiesa, famiglia di Dio per tutti i tempi.